Ok? Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento che ormai sta diventando fisso il giovedì pomeriggio, dalle 18 fino alle 19 qui a Radio Cerrano Web, che dà il benvenuto a tutti quelli che si sono messi all'ascolto della nostra emittente e soprattutto ai tre ospiti che ho il piacere di avere qui, non in studio, però collegati con noi, perché così come abbiamo fatto nei giovedì precedenti, ci piace ripercorrere alcune pagine, tra virgolette, nere della cronaca abruzzese o della cronaca che è anche coinvolto abruzzesi, come è il caso di questa sera, per rispolverare un po' la memoria, ma anche per cercare di fare opera di trasmissione di conoscenze, che credo che i mezzi di informazione dovrebbero fare sempre, per i più giovani o per quelli che praticamente la memoria l'hanno anche un po' persa, che è uno sport nazionale molto, molto frequentato. Allora, questa sera ci occuperemo di un fatto grosso, di un fatto che si innesta nella storia proprio della nostra nazione, che sono gli anni 70, e quindi parleremo di terrorismo, ma lo faremo con un occhio, appunto, con l'occhio dello storico, degli storici in questo caso. Quindi con l'occhio di chi a mente fredda adesso analizza fatti che sono avvenuti più di 50 anni, quasi 50 anni fa. E infatti stasera insieme agli autori parleremo di questo libro che ha per titolo Brigate Rosse, l'Invisibile, ed è un libro che è uscito dalle quattro mani dalle due mani di Simona Folegnani e di Berardo Lupacchini, che io saluto e chiamo subito in causa, soprattutto Simona Folegnani. Buonasera. Buonasera, buonasera, grazie. Allora, no, grazie a voi per il vostro lavoro. Allora, io non ho specificato un po' i contorni di questo libro e vorrei da lei un po', ci possiamo dare del tu, che forse è meglio. Assolutamente sì. Quindi vorrei da te che ci raccontassi un po' qual è l'argomento della serata, del vostro libro, quindi della nostra serata, e poi faremo capire anche perché abbiamo il nostro terzo ospite che poi insomma sveleremo. Mi sente? Sì, dunque, questo libro si occupa, come hai detto tu prima, di Brigate Rosse, in particolare di un evento che si è verificato, è avvenuto, diciamo, a seguito del rapimento di Vittorio Vallarino Gancia il 4 giugno 1975, e che ha portato poi al ferimento e alla morte dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Quindi il 4 giugno 1975 viene rapito il re dello spumante, Vittorio Vallarino Gancia, e inizialmente, diciamo, la pista seguita è la pista mafiosa, l'anonima sequestri. L'arresto però di un giovane, tale Pietro Dal Masso, alias Massimo Maraschi, cambierà un po' il panorama investigativo. E quindi la matrice. Scusa Sì? Simona, scusa se ti interrompo. Dimmi. Contestualizziamo un po' gli avvenimenti. Sì. Stiamo parlando di uno, anzi, forse il primo, uno dei primi È stato il avvenimenti primo sequestro eclatanti. di estorsione Sì. delle Brigate Rosse, sì. Ed era un sequestro che i libri di storia dicono serviva appunto a finanziarli, queste brigate, finanziare le Brigate Rosse che si trovavano un po' agli albori, o quantomeno erano ancora in una fase iniziale della loro, sì, della loro attività, giusto? Giusto. Prego. Sì, erano in una fase iniziale, però con il sequestro, diciamo, Sossi, quella che era la lotta armata vera e propria, quindi l'attacco al cuore dello Stato, prende forma e quindi ovviamente la lotta armata va finanziata. Per cui decidono quindi di sequestrare Vittorio Vallarino Gancia. La matrice politica è una matrice che viene accolta con incredulità, perché Gancia non ha mai occupato cariche politiche. Ben presto si scoprirà invece qual era la matrice reale, che era in realtà, diciamo, quella appunto legata al finanziamento. Quindi con l'arresto di questo giovane, quindi comincia a cambiare questo panorama investigativo, ma non è ancora finita la conferenza stampa nella quale si darà conto e si ufficializzerà la notizia del sequestro e anche i dubbi che il sequestro sia legato appunto alle Brigate Rosse, che arriva la notizia di una sparatoria in località Arzello di Melazzo, che ha coinvolto una pattuglia di carabinieri, quattro carabinieri, quindi il tenente Umberto Rocca, l'appuntato Giovanni D'Alfonso, il maresciallo Rosario Cattafi e l'appuntato Pietro della Procura, in stanza l'ufficiale di PG alla procura di Acqui, Pietro Barberis. Quindi questa sparatoria è avvenuta alla Cascina Spiotta, un luogo strategico nelle colline appunto del Monferrato, che era anche la prigione di Vittorio Vallarino Gancia. Arriva la notizia quindi del ferimento, del grave ferimento del tenente, del capo quindi della pattuglia, e del fatto che comunque Giovanni D'Alfonso fosse appunto stato ferito in maniera molto più grave, quindi fosse in fin di vita. È morta anche nel conflitto a fuoco è morta anche una donna. Dopo qualche ora quindi si chiarirà definitivamente la matrice del sequestro per il materiale che verrà rinvenuto alla cascina, e verrà data anche identità a questo cadavere, a questa donna, che è Margherita Cagol, quindi la moglie di Renato Curcio. Chiaramente questo poi solleva tutta una serie di polemiche, perché nessuno o comunque in pochi crederanno, diciamo, alla casualità con la quale la pattuglia arriva su quella collina. Allora ti fermo un attimo, così facciamo. Allora, quindi Silvia ci ha in qualche modo riassunto brevemente qual è il filo conduttore in questa di questo libro interessantissimo, che io vi invito a comprare, o a quantomeno a comprare, perché comunque apre degli squarci importanti, che poi, se voi lo leggerete, vi accorgerete che questi squarci, questi tasselli poi si uniscono ad altri tasselli importanti della nostra storia recente. Poi tanto recente non è, ma che è stato un momento fondamentale, importantissimo per la storia della storia repubblicana, appunto i cosiddetti anni di piombo, con la nascita delle Brigate Rosse, ma di prima linea, prima di lotta continua, ma anche del terrorismo di destra, che iniziò questa strategia della tensione con la strage di Piazza Fontana a Milano, e poi in qualche modo lì si cominciarono a vedere anche le prime ombre delle cosiddette forze invisibili. Infatti voi usate il termine invisibile nel vostro libro, nel titolo del vostro libro, e quindi io mi rivolgo a Berardo Lupacchini. Naturalmente, io prima ho detto che avevamo il nostro terzo ospite. Il nostro terzo ospite collegato è Bruno D'Alfonso, figlio di quel carabiniere che rimase vittima in quella sparatoria, quindi a cui poi chiederemo le sue impressioni. Però, dicevo, torniamo al secondo, Berardo Lupacchini, secondo autore. A Berardo volevo chiedere, collega giornalista. Intanto, com'è nata questa, questa collaborazione con Simona Folegnani e perché poi usate questo termine, l'invisibile, per il libro? Sì, allora tutto nasce dal fatto che Giovanni D'Alfonso, il carabiniere, è rimasto vittima di questa terribile vicenda di sangue del 75, era nato a Penne e c'è una via che Penne dedica a questo valoroso eroe borghese. E da qui nel 2015, nel lontano 2015, quindi 40 anni dopo la sua uccisione, decisi, io dirigevo e dirigo tuttora una testata che si chiama L'Acerba, conoscendo Simona, le chiesi di approfondire un po' questa figura, Simona che io conoscevo già da qualche mese prima, di approfondire la figura di D'Alfonso. E Simona appunto si cimentò in una ricerca importante e scrisse un ottimo articolo notato da Bruno, il figlio, il secondogenito del carabiniere che appunto abbiamo anche lui qui collegato. E praticamente nacque, diciamo, un po' da loro due, poi sono stato coinvolto io, nacque l'idea di... Bruno era da tempo che voleva illuminare un po' la storia del padre, una storia purtroppo misteriosa di un servitore dello Stato poi lasciato nell'ombra, ecco perché l'invisibile, il primo invisibile del libro è proprio Giovanni D'Alfonso, perché sia perché venne condotto in questa operazione dal tenente Rocca, un'operazione casuale secondo le cronache, ma non fu per nulla casuale. E quindi poi rimase solo, poi magari Simona, che ha studiato molto bene la dinamica di quella sparatoria, lo spiegherà, rimase praticamente solo per alcuni minuti, i minuti fatali nei quali poi i due brigatisti che erano asserragliati nella cascina Spiot, che quindi davanti all'arrivo di questa pattuglia poi ingaggiarono un conflitto a fuoco e cercarono di fuggire, e uccisero poi questo carabiniere che anche dopo non ebbe il riconoscimento giusto, perché la medaglia d'oro non venne data alla sua memoria, bensì la medaglia d'oro venne data al tenente Rocca, diventato poi generale, che è ancora vivo, ha costruito una carriera splendida, brillantissima nell'arma dei carabinieri. Gli altri due invisibili, e concludo per ora il mio intervento, sono il brigatista che è riuscito a fuggire, che noi individuiamo in Mario Moretti, scartando altre ipotesi, e lo diciamo nel libro, e poi diremo anche il perché Mario Moretti, e poi il terzo invisibile importantissimo è questo brigatista, anche lui, che però era infiltrato da parte del servizio segreto dell'epoca, il SID, servizio segreto militare all'epoca c'era, prima della riforma, poi dal 77 è venuto fuori il servizio segreto militare e quello civile, ma all'epoca era solo quello militare, e questo operaio del petrolchimico di Marghera che era infiltrato proprio in quei giorni, in quei mesi, proprio nelle Brigate Rosse, e che poi permise l'arresto di Renato Curcio nella seconda e ultima battuta, Nadia Mantovani, e Giorgio Semeria ed altri. Proprio fu un infiltrato, la famosa Fonte Frillo, di cui riveliamo nome e cognome per la prima volta, quindi nell'ambito delle Brigate Rosse. Benissimo. Questo è un po' il succo e anche, diciamo, le novità importanti di questa vicenda, che in effetti è vero, io sono andato a rivedere poi, è una pagina un po' oscura dei cosiddetti anni di piombo. Però ecco, intanto io volevo salutare e ringraziare Bruno D'Alfonso, che, come ha detto il mio collega, buonasera. Grazie di essere con noi, figlio secondogenito. Lei naturalmente è rimasto sempre in Abruzzo. Sì, sì, sono rimasto sempre in Abruzzo perché ho qui la mia famiglia, anche se per una trentina d'anni ho girovagato un po' per l'Italia come appartenente dell'Arma dei Carabinieri. Sono adesso in pensione da qualche anno, però ho fatto, diciamo, seguito le orme di mio padre e mi sono congedato con il grado di luogotenente. Perché era, lo chiedo a lei che ha vissuto sulla propria pelle questa terribile vicenda, perché era ed è importante fare luce su questo avvenimento, a parte come dire, gli aspetti anche personali che io capisco benissimo, nel senso che uno si vede il proprio padre morire in questo modo, ma perché per lei era così stringente? Ma è importante non tanto per me, ma per la memoria di mio padre, perché il sacrificio che ha fatto lui, ecco, non sapendo neanche chi ha posto fine alla sua vita, non mi sembra una cosa dignitosa proprio per la sua memoria, per quello che lui ha dato alla società italiana e come tutore dell'ordine. E io, diciamo che ero piccolino quando è successa questa vicenda, e avevo 10 anni e mezzo, anche se ricordo benissimo tutto quello che è successo. E poi, passando gli anni, diventando adulto, mi sono reso conto che c'erano tanti lati oscuri che non sono appunto venuti alla luce. Per esempio, chi fosse stato l'autore materiale dell'omicidio di mio padre non si era saputo immediatamente, o comunque, essendoci la Margherita Cagol deceduta anche lei nel conflitto a fuoco, un po' tutti additavano a lei la responsabilità dell'omicidio di mio padre. E quindi anch'io sono, diciamo, maturato questa versione negli anni, però comunque c'era sempre un brigatista che mancava all'appello, e poi ho cominciato a farmi delle domande, anche perché c'erano lezioni contrattanti su come si erano svolte le dinamiche, insomma, di quel fatto, e quindi ho cercato di questa verità, più che altro perché ho avuto sempre più il sospetto che ad uccidere mio padre non fosse stata la Cagol. E questo adesso è venuto fuori proprio dagli accertamenti della Simona e di Berardo, e perché dalle indagini che sono state riaperte proprio con la pubblicazione del libro, perché da questo libro sono sorti tantissimi elementi che diciamo, mi hanno consentito di far riaprire questo caso, quindi sono venute fuori delle responsabilità non attribuibili più quasi al 100% alla Margherita Cagol, perché ad esempio nella sparatoria la brigatista avrebbe soltanto lanciato le bombe, armi che non hanno colpito in pieno mio padre. La morte di mio padre è stata causata dall'esplosione di colpi di pistola, e quindi l'unico che avrebbe sparato è questo brigadista fuggito. E questo ci si è arrivati col fatto che si è saputo che è stato fatto il guanto di paraffina alla brigadista, e questo, l'esito degli accertamenti, l'esito di questo esame, ha escluso la sua responsabilità per quanto riguarda l'uso di armi da fuoco come la pistola, ecco. La fermo un attimo per ripassare un po' la palla a Simona, perché poi gli aspetti interessanti, secondo me, sono anche quelli legati alla ricerca. Come da dove è iniziato? Come è scaturito? Cioè, quali sono state le ricerche che hai fatto? Dunque, e quali le fonti, anche se si possono dire? Allora, siamo partiti, chiaramente sono partita dalla sentenza che mi ha colpito come procedimento, perché così un po' per mestiere sono abituata a vedere sentenze anche corpose, di fatte di tante pagine, di particolari, e invece quella mi aveva colpito, me la portò appunto Bruno nel nostro primo incontro, mi aveva colpito proprio perché era un documento molto scarno, non si, al di là di quella che era la diciamo responsabilità di Massimo Maraschi, poi non, se, non c'erano altri elementi diciamo neanche presunti rispetto a responsabilità altrui, e non c'era, mi sembrava quasi, cioè l'ho percepito da quelle poche righe, non c'è stata neanche la volontà di andare oltre. Quindi Massimo Maraschi doveva pagare e doveva pagare per tutti. Quindi sono partita da quel documento, abbiamo fatto poi l'accesso agli atti processuali, dai quali è stato cioè evidente, insomma, fin da subito l'esistenza di questo depistaggio. Io inizialmente, studiando queste carte, l'avevo imputato al fatto che, diciamo, cioè all'esecuzione in piena regola di Margherita Cagol, quindi a una sorta di copertura di questo, diciamo, di questo omicidio. Invece poi con l'acquisizione di altro materiale, quindi in primis la casa memoria, che è veramente una cassaforte da questo punto di vista, e anche l'acquisizione dei documenti agli archivi di Stato, quindi quello centrale di Roma, quello di Venezia, ci ha consentito invece di poter formulare un'ipotesi molto più ampia, per cui diciamo il depistaggio, quindi tutto questo mistero che questo ombra che poi è scesa, questo silenzio che è sceso su questo caso, non erano legati soltanto al fatto che probabilmente Margherita Cagol è stata in realtà diciamo uccisa, ma anche alla protezione e quindi alla copertura di quell'infiltrato di cui noi abbiamo parlato. E questo è stato possibile solo con lo studio, diciamo, di questi documenti, dei documenti del SID, che ci hanno aperto quindi questo nuovo scenario, e quindi quella che era la valorizzazione, la considerazione delle fonti, degli infiltrati in quel periodo per le Brigate Rosse, che non era la stessa, diciamo, che poteva, che non aveva la stessa valenza che poteva avere per quanto diciamo riguardo ai gruppi di estrema destra. Perché lì era molto più facile, lì non c'era solo l'infiltrazione, c'era proprio la collusione rispetto ai servizi segreti. Le Brigate Rosse era più difficile infiltrarle, quindi gli infiltrati erano preziosi. Gli infiltrati ci sono stati fin dall'inizio, fin da quando l'organizzazione era allo stadio embrionale. Basti pensare che alla riunione che c'è stata all'albergo Stella Maris sono state rilevate tutte le targhe e tutti i partecipanti a quella riunione, quindi le Brigate Rosse ancora lì non avevano neanche deciso di intraprendere la lotta armata. Ricordiamo. Ricordiamo, perché hai fatto riferimento a un avvenimento ben preciso, che è un po' il punto di partenza un po' della lotta armata cosiddetta rossa. Ed è quel famoso incontro all'ostello Stella Maris, se non sbaglio, in cui si riunirono rappresentanti, se non sbaglio lì c'era Prima Linea, c'erano Lotta Continua, comunque c'era un'ala che tendeva appunto alla lotta armata, quindi a favorire la rivoluzione, e un'ala invece esclusivamente movimentista, mettiamola così, se non sbaglio. Quello è un punto di snodo importante. Infatti tu dicevi che già in quell'occasione comunque le forze dell'ordine avevano, si dice, attenzionato già un po' tutto il movimento. Assolutamente, avevano provato anche a infiltrarlo attraverso anche l'avvocato Malaguggini, quindi utilizzando diciamo anche altri canali che poi non erano riusciti, e questa fonte che noi abbiamo individuato in particolare inizia a collaborare col servizio dal 71 fino all'82, quindi fino al suo arresto, quindi 11 anni per 213 informative. Quindi questo, diciamo, ci ha consentito di aprire uno scenario un po' diverso rispetto a quello che era inizialmente, quella che era la nostra, diciamo, l'ipotesi che avevamo formulato in un primo momento e che era legata alla morte di Margherita Cagol. Diciamo che questa cosa, quindi, è un po' lo scoop del libro, giusto Berardo? Quello che avete portato avanti voi. Però a me mi sorge una domanda. In tutti questi anni, comunque, per esempio, i pentiti, perché poi ci sono stati, dopo la disfatta, diciamo, del Brigate Rosse, ci sono state una serie di interviste, di dissociazioni, eccetera. Nel corso di tutte queste di questi anni, quindi, tutto è rimasto sotto la cenere, diciamo, è stata coperta. Neppure loro, neppure quelli delle Brigate Rosse, hanno avuto interesse a disvelare un po' tutto l'accaduto, che, ricordo, è un accaduto fondamentale nella storia del terrorismo delle Brigate Rosse. Sì, un attimo, scusa. La vicenda della Spiotta è veramente un passaggio cruciale proprio della storia sia delle Brigate Rosse, ma sia in particolare un po' della risposta dello Stato al fenomeno terroristico rosso, perché abbiamo detto che la strategia della tensione, come dicevi giustamente tu, venne inaugurata nel 69 e poi proseguì fino al 74 con gli attentati famosi sia a Brescia, a Piazza della Loggia, poi col treno Italicus e altri attentati. Ricordo brevemente, tu sei la radio di quelle parti, tu sei di Atri, però sì. Silvi, ci fu un attentato il 29 gennaio 74, nel libro lo riportiamo, doveva esplodere il treno Milano-Bari, un treno notturno con 800 passeggeri a bordo. L'operazione era stata pianificata dai fascisti, dall'estrema destra di Ascoli, una cellula molto forte all'epoca, che con Giancarlo Esposti, che poi venne ucciso qualche mese dopo in un conflitto a fuoco dai carabinieri a Pian di Rascino, e non saltò in aria quel treno, grazie a Dio, perché un merci proveniente da Pescara e diretto ad Ancona, che era imprevisto, in qualche modo tagliò il detonatore, e il danno fu assai lieve e il treno riuscì a passare regolarmente. Chiusa la parentesi. No, ma ti ringrazio perché fatto, siccome stiamo analizzando un po', sì, tutto, sì, sì, e crediamo che noi Abruzzo, o comunque l'Abruzzo fosse, sì, in qualche modo la famosa Isola Felice, che poi, insomma, era vero. Hai fatto, sì, bene a ricordare questo episodio, altro episodio importante. Importantissimo, nel 74, tutti prosciolti poi dalla Corte di Assise di Teramo. E per quanto riguarda, tornando a noi, quindi, diciamo che la vicenda della Spiotta è stata veramente importante. Perché? Perché dobbiamo dire che lì praticamente il nucleo storico delle Brigate Rosse, cioè Curcio e la moglie Margherita Gagol, Mario Moretti, Alberto Franceschini, il nucleo storico che diede vita all'organizzazione, in quel momento vedeva, siamo nell'aprile 75 quando viene organizzato il sequestro, c'era Curcio che era stato appena liberato dalla moglie a febbraio dal carcere, sì, di Casale Monferrato, con un'azione particolarmente brillante e incruenta. E quindi, diciamo, Curcio non poteva muoversi più di tanto, essendo un super latitante. E Franceschini era stato arrestato, a proposito di infiltrazioni, grazie proprio all'infiltrazione di Silvano Girotto nel 74, che insieme a Curcio, frate Mitra, che è morto di recente, e quindi già quello fu un'infiltrazione molto potente da parte sempre del SID e del nucleo speciale che era nato, dei carabinieri, guidato dal generale Dalla Chiesa, che era nato in conseguenza del sequestro Sossi, sempre del 74. Quindi, diciamo, la risposta dello Stato fu subito immediata e andò a buon fine con questo doppio arresto, anche se se avessero aspettato avrebbero potuto arrestare un po' tutti. E comunque dal 69, dalla Stella Maris di Chiavari, erano tutti noti, e dal 72 Mario Moretti, che ha dichiarato in un libro autobiografico insieme a Curcio di aver organizzato e gestito il sequestro Gancia. Non parlano i brigatisti, se non per esempio Enrico Fenzi. Enrico Fenzi nel 2017 alla commissione parlamentare Moro Bis è stato lui quello che ha detto che si diceva nell'ambiente del nucleo storico, si diceva che fosse Mario Moretti l'uomo miracolosamente sfuggito alla cattura proprio alla cascina Spiotta. Partendo da quelle dichiarazioni abbiamo concentrato le nostre attenzioni proprio sulla sua figura ed in particolare sulla relazione che venne trovata 6 mesi dopo la Spiotta, nel secondo arresto di Curcio e di Nadia Mantovani a Milano nel gennaio 76, e che fu propiziato proprio dall'infiltrato di cui diremo meglio. E in questa dichiarazione resa dal brigatista fuggito ci sono dei riferimenti che chiaramente noi abbiamo individuato perché abbiamo studiato molto, ovviamente, dei riferimenti precisi che quest'uomo, che per noi è Mario Moretti, fa a Curcio e gli dice in particolare: guarda, là era morta la moglie di Curcio, era morta in circostanze strane perché lui si era salvato e la moglie era morta, come mai? E come mai non era il piano che era stato studiato per respingere eventuali attacchi dei carabinieri e della polizia non andò a buon fine, come quello di mettere un tronco d'albero sulla stradella oppure di avere una macchina subito a disposizione? Furono elementi che non vennero assolutamente posti in essere dai brigatisti. Quindi quest'uomo Moretti dice a Curcio: guarda, io ero ad osservare dove l'altra volta nell'operazione Girasole ero ad osservare da quel punto preciso della cascina, guardavo la strada. Fa un riferimento cioè ben preciso a Curcio per fargli capire, perché durante il sequestro Sossi, mentre il magistrato Ligure era a Tortona nelle mani della Cagol di Franceschini e di Bertolazzi, alla cascina Spiot, cioè lì a 30 km da Tortona, c'erano proprio Curcio e Franceschini che per 35 giorni erano proprio lì pronti ad ogni evenienza nell'ambito del sequestro Sossi. E questo ce lo dice il libro di Alberto Franceschini, che cosa sono le BR, perché Franceschini e la Cagol si recarono alla cascina Spiotta, dove appunto c'erano Moretti e Curcio, per decidere la sorte dell'ostaggio. Mentre Moretti voleva uccidere Sossi, passò invece la linea di Franceschini e di della Cagol, e poi anche Moretti e di Curcio, passò la linea di salvare la vita all'ostaggio, perché comunque a livello politico il sequestro stava andando molto bene, questo metteva in contraddizione, esatto, lo Stato. Questo Franceschini lo rivendica più volte, questa sì, sua lo rivendica più volte. Quindi sì, tornando, concludo sì, brevemente, prego. Il passaggio. Perché Moretti, per esempio, che comunque ha beccato 6 ergastoli e comunque è dall'81 in carcere e adesso è in un regime ancora di semidetenzione, non parla? Perché non parlano questi brigatisti? Perché non si assumono la responsabilità? Questo perché è... tanto non sa, perché intanto siamo convinti che Moretti proprio non ha mai parlato, diciamo, più di tanto, quindi non è un tipo rimasto sempre un po' sulle sue. Io ho provato anche a contattarlo al carcere di Opera, non ne ha voluto parlare, pur dicendo che comunque non c'è nulla di segreto nell'organizzazione, tutto sì, si sa, ma lo tutto ha ribadito, sì, lo ha ribadito più volte, anche tutto nel suo libro, di tutti, intervista. Lui non si è mai ufficialmente pentito né si è dissociato. Tenete conto che ci furono una serie di norme speciali che consentirono poi di avere dei fortissimi sconti di pena a molti brigatisti condannati all'ergastolo, che poi dopo 15-20 anni sono usciti, gente che si è pentito. Lo stesso Peci, che è il principe dei pentiti delle Brigate Rosse, ha beneficiato di sconti di pena, adesso vive con un'altra identità. E quindi... Però sì, ecco, prima di Peci, anche... prima di Peci c'era un altro infiltrato. Patrizio Peci, sì. Anche un po' San Benedettese, quindi San Benedettese. Un po', dell'area, della nostra area. No, io volevo sottolineare, volevo un po' far capire, se possibile, ai nostri teleascoltatori che non è solo il caso Moro a essere avvolto nelle nebbie. Questo caso proprio che è in qualche modo l'avvio di un'escalation terroristica. Bravo. Sì. Enorme, nasce appunto con tutti questi punti interrogativi e per questo io volevo chiedere un po' a Bruno D'Alfonso, ma lei che idea si era fatta nel corso degli anni e poi vivendo anche all'interno dell'arma dei carabinieri? Cioè questo libro è stato in qualche modo illuminante, esplicativo, oppure un'idea lei già se l'era fatta? No, io mi ero fatto un'idea, però alla fine diciamo mi ero reso conto che c'era stata molta confusione nella gestione di quell'azione da parte dei carabinieri. Mi sono reso conto che ci sono state tante mancanze da parte della magistratura, a partire già, come ha detto prima Simona, che la prima stranezza è l'aver addebitato tutta la responsabilità di questa del conflitto a fuoco a un brigatista che è stato arrestato il giorno prima. E quindi alla fine il libro è stato più che illuminante, perché ci fa capire che comunque ci sono state tante carenze investigative. E questo ha portato a non diciamo a coprire la responsabilità del fuggitivo, che è uno degli invisibili, ma anche a far capire di come venivano gestite queste situazioni, che lo ritroviamo sia nel caso di mio padre ma anche nel caso di Moro, e quindi anche in tanti altri. Ci sono sempre delle ombre che vengono comunque provocate proprio dalla presenza di personaggi come i servizi segreti e tante altre. Quindi c'era, come nel caso di mio padre, uno degli invisibili, un infiltrato. E questo è proprio per me, che comunque ho trascorso 30 anni nell'arma dei carabinieri, che rispetto sempre come istituzione, però mi ha posto in una situazione di imbarazzo nel momento in cui mi sono dovuto relazionare con i miei superiori per cercare di capire qualcosa in questa vicenda. Ecco, infatti, in tal senso, ma lei poi ha avuto qualche colloquio con l'ex tenente, poi diventato generale? Certo, tanti colloqui, fino all'ultimo che non c'è stato più, perché abbiamo interrotto questo rapporto. Praticamente lui si è rifiutato, il tenente Rocca, che poi lo ricordiamo per chi non lo sa, lui ha continuato la carriera, seppur mutilato, senza un braccio, senza un occhio, è stato collocato in un ruolo d'onore e gli hanno consentito di proseguire la carriera fino al grado di generale di divisione. E poi, autorizzato anche ad indossare la divisa quale rappresentante, come eroe vivente dell'arma, anche sulla soglia degli 80 anni. E lui è ancora vivente, però l'ultima, cioè, quello ci fa capire l'efficienza del libro, del nostro libro, scritto da Simone Berardo, che praticamente a un certo punto il tenente Rocca si è rifiutato di fornire le sue dichiarazioni in merito, quindi ha messo tutto a tacere con "non ricordo più nulla, lasciatemi perdere", dopo una vita che lui ha creato delle sue azioni. Sì. E infatti volevo chiedere a Simona, il libro è uscito da un po' di tempo, quali sono stati i riscontri ufficiali, ufficiosi, le reazioni? Cioè, perché questo è un libro che, io lo dico per i nostri ascoltatori, un libro che fa rumore, che dovrebbe fare rumore, ecco, mettiamola così, perché disvela una serie di, di passaggi importanti, ripeto, della nostra storia contemporanea, che poi, come vi dicevo all'inizio, se uno ha passione, tempo e voglia di trovare le tessere e di mettere insieme le tessere del puzzle, ci sono una serie di spiegazioni importanti, no? Si capisce un po' l'evoluzione della nostra storia repubblicana. Quindi, a tal proposito, quali sono state le reazioni, oppure vi aspettavate altre reazioni? Non lo so, ecco. Allora, intanto colgo l'occasione, insomma, volevo precisare una cosa. Il libro, ora la prima edizione è terminata, noi siamo già pronti, stiamo lavorando alla seconda edizione, quindi una veste nuova, contenuti nuovi, libro nuovo. E abbiamo, perché abbiamo insomma un'edizione rivista, nuova edizione aggiornata con tanti approfondimenti che non abbiamo potuto inserire nella prima edizione perché erano comunque degli argomenti che andavano approfonditi, quindi avevamo bisogno di riscontri, riscontri anche diciamo, tanto a livello probatorio ma anche a livello giornalistico, quindi avevamo necessità di approfondire, quindi tanto diciamo volevo appunto cogliere l'occasione per dire questo. E il libro, abbiamo diciamo che purtroppo la casa editrice non è una casa editrice grande, quindi insomma la distribuzione alle volte è stata un pochino problematica, però diciamo che dove il libro è riuscito ad arrivare ha ottenuto ottimi risultati. Noi ci siamo incontrati sia con alcuni membri della Commissione Moro che hanno preso parte ad alcune presentazioni, con il giudice Guido Salvini, e poi con il giudice Mastelloni. Abbiamo comunque ottenuto riscontri positivi anche da parte di alcuni ex brigatisti, nel senso che è un libro che comunque non si permette di giudicare né da una parte né dall'altra, fa una cronaca molto precisa di fatti, documenta molto questi fatti e documenta molto alcune le ipotesi che fa, quindi in maniera precisa, puntuale. Noi ad oggi non abbiamo ricevuto, speriamo di poterlo continuare a dire, una sola querela, una diffida, nulla. Credo che questo sia un risultato comunque molto molto molto importante, quindi da questo punto di vista siamo contenti. Speriamo che la nuova edizione abbia insomma quindi con tutte queste novità, novità importanti soprattutto per quanto riguarda la questione, diciamo, l'intervento blocca sia sul fronte dell'infiltrato, novità documentali molto importanti, ma anche proprio per quanto riguarda l'intervento di Rocca, quindi di quella della pattuglia e le modalità di quell'intervento. Benissimo, benissimo. Io se fossi un produttore televisivo, per esempio, ci farei intanto dei servizi proprio di approfondimento. Una storia da film, noi la definiamo. Anche una storia da film, da fiction. Per evitare però che si banalizzi, perché poi banalizzano. No, invece io stavo pensando per esempio alla Notte della Repubblica di Zavoli, in cui il vostro contributo sarebbe stato veramente favoloso. E anzi, io invito quelli che sono all'ascolto di andarselo a rivedere, perché su Rai Play, e cercare di innestare anzi questa storia che raccontano Simona Foregnani e Berardo Lupacchini in quelle ricostruzioni, in quelle interviste che Zavoli fa nel corso della sua trasmissione. Una cosa interessante per avere un quadro maggiormente preciso. Allora, io adesso tento una ricostruzione, la faccio io. Brigate Rosse e l'Invisibile parla, il vostro libro, come abbiamo detto fino a qui, di questo sequestro Gancia. Gancia era uno degli uomini più, diciamo, abbastanza ricchi del territorio. Questo sequestro, dopo il sequestro Sossi, che è un sequestro prettamente politico, quello di Sossi, avviene questo sequestro a scopo di autofinanziamento, mettiamola così. 24 ore dopo il sequestro, l'imprenditore viene liberato. Questo perché sul posto sul posto dove viene detenuto, i carabinieri ce li porta l'infiltrato, vero Berà? Ho capito, ma cioè questo infiltrato li porta i carabinieri a quella cascina, e poi naturalmente approfondisci un po' sta figura di sto infiltrato decennale. Aspetta un attimo. Non ti sentiamo. Adesso senti? Sì. Adesso sì. Sì, in questo primo libro non abbiamo disegnato precisamente ciò che effettivamente poi è stato, però abbiamo dato elementi per far capire questo sostanzialmente. C'era io ho capito questo. Sì. C'era, no, attenzione, mi spiego meglio. C'era molto Stato, nel senso che c'era il servizio segreto in azione, c'era il nucleo speciale dei carabinieri del generale Dalla Chiesa e c'erano i comandi territoriali dell'arma, in questo caso Canelli, dove avvenne il sequestro, e Acqui Terme, dove era ubicata la cascina, dove è ubicata la cascina Spiotta, e il cui tenente Rocca appunto guidò questa spedizione verso questa cascina. Praticamente, da quello che emerge, è che l'arresto di Massimo Maraschi, che descriveva Simona prima, avvenuto il 4 giugno, ad opera dei carabinieri di Canelli, ha permesso in qualche modo di avere delle notizie più o meno esplicite da parte di questo giovanissimo brigatista, che hanno poi permesso al tenente Aragno, che comandava Canelli, di avvisare in qualche modo il suo collega vicino di casa, cioè Rocca. Dice: guarda che dalle parti tue è segregato Gancia, vedi un po' tu. Lui, che aveva già in qualche modo aveva qualche informazione disponibile, si è mosso per conto suo, appunto facendosi autorizzare un po' questo blitz dal procuratore della Repubblica di Acqui, da Tovo. Sono poi tutte cose che noi abbiamo descritto, ma che descriveremo ancora meglio nella prossima edizione, perché poi abbiamo ulteriori elementi che ci consentono di fare determinate affermazioni. Mentre parallelamente il SID, servizio segreto, e il nucleo disponevano di questo infiltrato veneto che era proprio al massimo livello brigatista. Questo operaio, di cui si fa nome e cognome nel libro, Leonio Bozzato, con i capelli rossi, quindi i baffi rossi, piuttosto riconoscibile, ci ha incuriosito. Lo abbiamo scoperto successivamente, praticamente analizzando decine e decine di documenti, perché la Casa della Memoria di Brescia ci ha offerto questi rapporti del SID. Studiando il processo 7 aprile sull'autonomia, praticamente siamo arrivati poi a identificare, attraverso documenti acquisiti direttamente a Mestre, siamo arrivati a identificare questo soggetto che addirittura potrebbe aver fiancheggiato, potrebbe aver fatto parte del gruppo di appoggio ai sequestratori di Gancia, praticamente, perché ci sono delle testimonianze piuttosto precise che segnalano quest'uomo rosso con i baffi rossi che si aggirava da quelle parti, che è stato visto prima, nelle fasi precedenti il sequestro. Quindi, ricapitolando e poi rimandando alla prossima edizione, dove spiegheremo proprio nel dettaglio tutto, riepilogando: da una parte i carabinieri del territorio, Canelli ed Acqui, che si muovono per conto loro; dall'altra, nucleo speciale e SID, che avevano notizie di prima mano sui movimenti brigatisti e quindi su questo caso Gancia. Ti ripasso la linea. Sì, va bene. Volevo l'abbiamo fatto passare, no? Credo sul video che le indagini quindi sono riaperte su questa vicenda. Questo sì, può sì. Parlarne Bruno. Bruno sì. Sicuramente sì, ha sì. Notizie più precise. Sì, il 18 novembre del 2021, a seguito in concomitanza dell'uscita del libro, dove sono appunto sono emersi tantissimi elementi utili per far aprire le indagini, ho presentato questa istanza alla Procura di Torino e quindi adesso, a distanza di un anno, penso che i risultati ancora vengono resi noti, però ci sono state le notizie sui quotidiani, nei vari TG a livello nazionale, che sono stati comunque ascoltati diversi brigadisti ancora viventi. E poi l'inizio di ottobre scorso sono stato chiamato a presenziare ad alcuni accertamenti del RIS di Parma su oggetti repertati all'epoca, e quindi che adesso con la tecnologia avanzata è possibile prendere qualche traccia biologica, esaminarla e avere dei riscontri oggettivi per sapere qualcosa di più, insomma. E questo, queste sono. Ma l'importante è fare chiarezza, ma io credo che sia importante a livello storico, oltre che bravo, bravo Carlo. Bravo. Se posso aggiungere qualcosa, ecco. No. Mi ha chiesto il perché. Io, negli anni ho taciuto sempre su questa vicenda, anzi cercavo di evitare, insomma, qualsiasi coinvolgimento. Però a un certo punto, ho iniziato già nel 2007, c'era Oreste Scalzone che ha fatto delle dichiarazioni proprio contro le vittime del terrorismo, e quindi si era entrati in una fase in cui i brigatisti, con un colpo di spugna, comunque con dei decreti, con delle dichiarazioni della cessazione dell'appartenenza a questi gruppi eversivi, e questi brigatisti li ho cominciato a ritrovare nelle televisioni, nelle università, a pontificare le loro ideologie, e anzi mi sono sentito a un certo punto preso in causa, perché proprio questo Oreste Scalzone dice le vittime del terrorismo ci marciano sopra a queste questioni, e quindi ci sono figli di vittime che fanno i politici, che ottengono questo e quell'altro. Invece sono proprio loro che, dopo tantissimi anni, non si sono mai pentiti e quindi adesso, nonostante siano alla soglia degli 80 anni come Mario Moretti, c'è mai una dichiarazione verso le vittime del terrorismo. Loro se la sono scampata, come ha citato Berardo, Mario Moretti ha 6 ergastoli e non se ne è fatto neanche uno, in semilibertà dal 94. Per loro, capito, la vita ricomincia. E le vittime sono passate nel dimenticatorio, però il dolore delle vittime, il dolore è sempre tale. Quindi, per questo motivo, ho cercato di fare questo caso, ci sono riuscito, e anche se adesso l'esito non sarà, non so se sia quello sperato, però comunque ho dovuto fare un tentativo proprio per onorare la memoria di mio padre. E su questo naturalmente ha pienamente ragione, non solo ragione, ma diciamo anche che la storia però le ha dato ragione, nel senso che i brigatisti sono stati sconfitti storicamente, perché la loro idea è naufragata di fronte anche a una serie di di avvenimenti spontanei della democrazia italiana, quindi la loro speranza era di sollevare il popolo, insomma, che il popolo poi sarebbe andato dietro ai loro obiettivi, no? E non è stato così. Però secondo me, oltre a questo aspetto proprio di carattere personale, come ha giustamente sottolineato Bruno D'Alfonso, io credo che il vostro lavoro, il lavoro che avete fatto a 4-6 mani, sia importante proprio per quella ricostruzione storica che è ancora in atto, perché poi voi giustamente parlate di questo avvenimento come avvenimento scatenante o importante per arrivare poi al delitto Moro, in cui anche lì ci sono una serie di buchi neri da riempire. E purtroppo, io non lo so, ditemi la vostra, in questo io vi chiedo anche un'argomentazione finale sia a Simona Fregnani che a Berardo Luppacchini. In questa maledetta storia italiana non è mai chiaro nulla, cioè c'è sempre qualcosa da scoprire, qualcosa da far emergere, o qualcosa che, non lo so, i giornalisti o storici come voi sono costretti a fare gli archeologi, a scavare un po' alla volta per capire, per far capire soprattutto alle persone che cosa realmente è successo. Ecco, qual è il vostro sentimento a questo punto, la vostra, più che opinione, proprio la vostra sensazione? Vorrei da Simona inizialmente. Ma dunque sì, in effetti questo è stato, a differenza insomma del caso Moro, che è un caso che sul quale ci sono tuttora ombre e lati oscuri, che però ha avuto, se così si può dire, la fortuna comunque di essere sempre sotto i riflettori, questo è un caso invece che è caduto totalmente nell'oblio. Questo era di fatto l'obiettivo, silenziare questa vicenda, proprio perché qui tutti avevano da perdere, non soltanto i brigatisti, ma anche la controparte, quindi servì la magistratura che non ha fatto quello che doveva fare, le forze dell'ordine che hanno coperto, occultato. E purtroppo i misteri non si creano soltanto perché li crea una parte, i misteri nascono perché ci sono comunque, perché le persone preposte alle indagini, preposte a diciamo comunque ad investigare e a scoprire, non fanno quello che dovrebbero fare. A me una cosa che ha colpito moltissimo nell'esame di questi, leggere questi documenti dei servizi che abbiamo acquisito, è proprio la diciamo il fatto che comunque per proteggere questi infiltrati, l'attività di questi infiltrati, si arrivasse addirittura a coprire anche la commissione di reati. Quindi questo la dice lunga anche su quello che era diciamo la parte diciamo del lo Stato, quindi quello che era all'epoca anche la parte buona, che doveva comunque essere quella a difesa del cittadino. Quindi per salvaguardare queste fonti, in realtà poi si chiudeva si metteva un velo, diciamo, su quindi anche un altro, per fare un altro esempio, un appunto scritto a mano dal capo del servizio D, dell'ufficio D, quando dice: noi a Verona siamo in grado, nel Veneto saremmo in grado già. 75, saremo in grado già di sconfiggere le Brigate Rosse, ma forse l'organizzazione, almeno veneta, ma forse conviene continuare a subire fino al colpo grosso. Ecco, continuare a subire significava anche continuare a produrre morti, quindi morti che si sono comunque morti che si sono verificate non soltanto per mano dei brigatisti, ma sempre perché comunque c'era anche qualcos'altro, quindi qualche qualche altro elemento di disturbo che lo permetteva. Anni bui, invece Berardo, una tua nota conclusiva su questo incontro, ma soprattutto sul vostro splendido lavoro. Sì, vabbè, io l'idea che mi sono fatto è che praticamente l'Italia era un paese, lo è tuttora, a sovranità limitata. All'epoca c'era appunto il pericolo del Partito Comunista, gli Stati Uniti erano lì a sorvegliare che il Partito Comunista non arrivasse mai al governo, di conseguenza l'apparato statale doveva tenere conto poi delle basi NATO americane che avevano appunto anche favorito, come si è visto nelle sentenze, avevano favorito le versioni di destra, per cui bisognava destabilizzare per stabilizzare. Quindi diciamo la lotta al terrorismo ha vissuto soprattutto di questo, e quindi i lati oscuri ve ne dovevano essere, perché non si poteva dire fino in fondo come ci si muoveva sul campo. E quindi eroi borghesi come Giovanni D'Alfonso, come non so, il giudice Coco, che poi venne ucciso l'anno successivo a Genova, sempre da Moretti e dagli altri, per vendicare la morte di Margherita Cagol, sono persone che hanno pagato il prezzo della vita in una partita molto, ma molto più ampia di loro. A questo proposito concludo segnalando due dichiarazioni. La prima del pretore Adriano Sanza, che era proprio amico di Sossi, il pretore genovese, che quando morì Coco nel 76 ebbe a dire che quello Stato per sopravvivere non doveva mai far luce su nulla, proprio per poter sopravvivere, quindi non poteva mai accendere la luce fino in fondo. E poi Renato Curcio nel 1996, appena uscito dal carcere, fa una dichiarazione incredibile dicendo c'è un motivo, ci sono dei motivi per cui né noi né i poteri, cioè nello Stato, possono dire più di tanto. Sin dai tempi di Piazza Fontana in poi non possiamo dire, per una sorte di patto tra virgolette, non possiamo esporci più di tanto. Concludo qui. Sì, è una conclusione amara, però ripeto, il vostro lavoro, per cui vi faccio ancora i complimenti, è veramente importante, illuminante. Noi aspettiamo con a questo punto con ansia anche la seconda edizione, come diceva una delle autrici, Simona Folegnani, aspettiamo con ansia questa nuova edizione. Vista anche in qualche modo allargata anche di contenuti, e naturalmente la nostra emittente è a vostra completa disposizione. Noi siamo qui per dar voce a tutti, ci mancherebbe anche voce a voi. E Carlo, dimmi, vorremmo far concludere anche il signor D'Alfonso. Ah, ecco, questa è la voce dell'altro Carlo. No, volevo chiedere appunto se il signor D'Alfonso voleva chiudere anche lui questo incontro con un suo pensiero, una sua certo, no, esternazione. No, io innanzitutto vi ringrazio per aver dato voce a questa storia, perché è sempre importante per i giovani che sono troppo lontani da quegli eventi, e tutto questo ci deve portare a far capire che comunque la verità deve sempre venire fuori, e quindi quelle difficoltà che ci sono state, come ricordava Berardo, le dobbiamo sempre sovrastare, perché dobbiamo comunque andare sempre fino in fondo e non dobbiamo lasciare nulla di intentato finché emerga la verità. Così. Se ha concluso, io volevo aggiungere solamente che la cosa bella di tutto questo è che quegli eroi cosiddetti dimenticati, quei figli, gli eroi dimenticati, o comunque quelle persone normali, no? Immolate anche sull'altare dello status quo, del tenere tutto sotto una certa cappa, però sono poi quelli, come voi appunto, che a distanza di anni grattano, scoprono e fanno emergere queste verità che, anche se sono scomode, ma devono essere dette. Quindi ancora una volta vi faccio i miei complimenti e dico a tutti voi e a tutti quelli che sono stati in ascolto, che sono in ascolto, a quelli che rivedranno, perché questo video poi naturalmente, questa diretta verrà rimessa in onda sulla nostra... Faremo anche un podcast di tutto questo, e poi naturalmente noi mettiamo tutto sul nostro archivio proprio in nome di quella memoria che rimane lì. Noi lo affidiamo al cloud e poi speriamo che serva a qualcosa. Di nuovo grazie, buona serata, buona serata, ciao. Belle, c'è la musica degli Goblin. Demo se posso...